Ad alta voce. Moni Ovadia legge Il nome della rosa di Umberto Eco. Settimo giorno, notte, dove avviene l'ecpirosi e a causa della troppa virtù prevalgono le forze dell'inferno. Il vecchio tacque, teneva ambo le mani aperte sul libro, quasi accarezzandone le pagine, come se stesse stendendo i fogli per leggerlo meglio o volesse proteggerlo da una presa rapace. «Tutto questo non è servito comunque a nulla», gli disse Guglielmo. «Ora è finita. Ti ho trovato. Ho trovato il libro e gli altri sono morti invano». «Non invano», disse Jorge. «Forse in troppi. E se mai ti fosse servita una prova che questo libro è maledetto, l'hai avuta. Ma non debbono essere morti invano. E affinché non siano morti invano, un'altra morte non sarà di troppo», disse e incominciò con le sue mani scarnite e diafane a lacerare lentamente a brani e strisce le pagine molli del manoscritto, ponendosele a brandelli in bocca e masticando lentamente come se consumasse l'ostia e volesse far la carne della propria carne. Guglielmo lo guardava affascinato e pareva non si rendesse conto di quanto avveniva. Poi si riscosse e si protese in avanti gridando: «Cosa fai?» Jorge sorrise, scoprendo le gengive esangui, mentre una bava giallastra gli colava dalle labbra pallide sulla peluria bianca e rada del mento. «Sei tu che attendevi il suono della settima tromba, non è vero? Ascolta ora cosa dice la voce. Sigilla quello che han detto i sette tuoni e non lo scrivere. Prendilo e divoralo. Esso amareggerà il tuo ventre, ma alla tua bocca sarà dolce come il miele. Vedi? Ora sigillo ciò che non doveva essere detto nella tomba che divento». Rise proprio lui, Jorge. Per la prima volta lo udì ridere. Rise con la gola, senza che le labbra si atteggiassero a letizia, e quasi sembrava che piangesse. «Non te l'attendevi, Guglielmo, questa conclusione, vero? Questo vecchio, per grazia del Signore, vince ancora, è vero?» E siccome Guglielmo cercava di sottrargli il libro, Jorge, che avvertì il gesto percependo la vibrazione dell'aria, si ritrasse stringendo il volume al petto con la sinistra, mentre con la destra continuava a stracciarne le pagine e a porsele in bocca. Stava dall'altra parte del tavolo e Guglielmo, che non arrivava a toccarlo, tentò bruscamente di aggirare l'ostacolo, ma fece cadere il suo scranno, impigliandovi la veste, in modo che Jorge ebbe modo di percepire il trambusto. Il vecchio rise ancora, questa volta più forte, e con insospettata rapidità protese la mano destra a tentoni, individuando il lume. Guidato dal calore, raggiunse la fiamma e vi premette sopra la mano senza temere il dolore, e la fiamma si spense. La stanza piombò nell'oscurità e udimmo per l'ultima volta la risata di Jorge che gridava: «Trovatemi ora! Perché ora sono io che vedo meglio!» «Lo specchio!» gridò Guglielmo. «Sta chiudendoci dentro!» Guidati dal rumore, entrambi ci buttammo verso l'entrata. Io inciampai in uno sgabello e mi contusi una gamba, ma non ci feci caso, perché in un lampo capii che se Jorge ci avesse rinchiusi, non saremmo mai più usciti. Al buio non avremmo trovato il modo di aprire, non sapendo da quella parte cosa si dovesse manovrare e come. Credo che Guglielmo si muovesse con la mia stessa disperazione, perché me lo sentì accanto mentre entrambi, raggiunta la soglia, ci spingevamo contro il retro dello specchio che si stava chiudendo verso di noi. Arrivammo in tempo, perché la porta si arrestò e poco dopo cedette, riaprendosi. Evidentemente Jorge, avvertendo che il gioco era impari, si era allontanato. Uscimmo dalla stanza maledetta, ma oramai non sapevamo dove il vecchio si fosse diretto e il buio era sempre totale. A un tratto mi sovvenni. «Maestro, ma io con me l'acciarino!» «Presto, presto!» E finalmente feci luce. «Presto!» mi incitò ancora Guglielmo. «Altrimenti quello si mangia tutto l'Aristotele!» «E muore!» gridai io angosciato raggiungendolo e mettendomi con lui alla ricerca. «Non mi importa se muore, il maledetto!» gridava Guglielmo figgendo gli occhi in giro e muovendosi in modo disordinato. «Tanto con quello che ha mangiato! Il suo destino è già segnato, ma io voglio il libro!» Lo raggiungemmo. Il suo volto al chiarore rosso del lume ci apparve ora orrendo. I lineamenti alterati, un sudore maligno gli striava la fronte e le gote. Gli occhi di solito bianchi di morte si erano iniettati di sangue. Dalla bocca gli uscivano lembi di carta come a una belva famelica che si fosse troppo ingozzata e non riuscisse più a trangugiare il suo cibo. Avremmo potuto afferrarlo con calma. Gli precipitammo invece addosso con enfasi. Egli si divincolò, serrò le mani sul petto difendendo il volume. Io lo tenevo con la sinistra, mentre con la destra cercavo di mantenere alto il lume, ma gli sfiorai il volto con la fiamma. Egli avvertì il calore, emise un suono soffocato, un ruggito quasi, lasciando cadere dalla bocca pezzi di carta. Abbandonò con la destra la presa sul libro, mosse la mano verso il lume e me lo strappò di colpo, lanciandolo in avanti. «Spegni quel fuoco, presto!» gridò Guglielmo. «Qui brucia tutto!» Mi lanciai verso il rogo, poi mi arrestai, perché non sapevo cosa fare. Guglielmo si mosse ancora verso di me per venirmi in aiuto. Protendemmo le mani verso l'incendio. Cercammo con gli occhi qualcosa con cui soffocarlo. Io ebbi come un'ispirazione. Mi levai la veste sfilandola dal capo e cercai di buttarla sul focolaio. Ma le vampe erano ormai troppo alte. Morsero la mia veste e se ne alimentarono. Ritrassi le mani che si erano ustionate. Mi voltai verso Guglielmo e vidi proprio alle sue spalle Jorge che si era avvicinato di nuovo. Il calore era oramai così forte che egli lo avvertì benissimo. Seppe con assoluta certezza dove stava il fuoco. E vi gettò l'Aristotele. In breve quel luogo fu un braciere, un rovetto ardente. Anche gli armadi partecipavano di quel sacrificio e incominciavano a crepitare. Mi resi conto che tutto il labirinto altro non era che un'immensa pira sacrificale preparata nell'attesa di una prima favilla. «Dell'acqua! Ci vuole dell'acqua!» diceva Guglielmo, ma poi soggiungeva. «Ma dove si trova dell'acqua in questo inferno? In cucina! Giù in cucina!» gridai. Guglielmo mi guardò perplesso, il volto arrossato da quel furente chiarore. «Sì, ma prima che siamo scesi e risaliti, al diavolo!» gridò poi. «In ogni caso, questa stanza è perduta, e forse anche la prossima. Scendiamo subito, io cerco dell'acqua, tu vai a dare l'allarme. Ci vuole molta gente!» «Acqua! Portate acqua!» gridavo. A tutta prima nessuno comprese. I monaci erano così adusi a considerare la biblioteca come un luogo sacro e inaccessibile che non riuscivano a rendersi conto che essa fosse minacciata da un accidente volgare come una capanna di contadini. I primi che alzarono lo sguardo alle finestre si segnarono mormorando parole di spavento e capii che credevano a nuove apparizioni. Mi afferrai alle loro vesti, li implorai di comprendere sino a che qualcuno tradusse i miei singulti in parole umane. Era Nicola da Morimondo che disse: «La biblioteca brucia!» «Ecco!» mormorai lasciandomi cadere sfinito per terra. Nicola dette prova di grande energia, gridò ordini ai servi, dette consigli ai monaci che lo attorniavano, inviò qualcuno ad aprire le altre porte dell'edificio, altri spinse a cercare secchi e recipienti di ogni genere, indirizzò i presenti verso le sorgenti e i depositi d'acqua della cinta. Riuscì a trascinare alcuni confratelli e altra gente nella cucina che frattanto qualcuno aveva reso accessibile. Qualcun altro ebbe il buon senso di portare delle torce. Trovammo il locale in gran disordine e compresi che Guglielmo doveva averlo messo a soqquadro per cercare acqua e recipienti adatti al trasporto. Vidi in quel mentre proprio Guglielmo che sbucava dalla porta del refettorio, il volto bruciacchiato, l'abito fumigante, in mano aveva una gran pignatta e provai pietà per lui. Povera allegoria dell'impotenza. Compresi che, seppure era riuscito a trasportare al secondo piano una pentola d'acqua senza rovesciarla e seppure lo aveva fatto più di una volta, doveva avere ottenuto ben poco. Mi sovvenni della storia di Sant'Agostino quando vede un fanciullo che tenta di travasare l'acqua del mare con un cucchiaio. Il fanciullo era un angelo e così faceva per prendersi gioco del santo che pretendeva penetrare i misteri della natura divina. E come l'angelo mi parlò Guglielmo appoggiandosi esausto allo stipite della porta. «È impossibile! Non ce la faremo mai! Neppure con tutti i monaci dell'abbazia! La biblioteca è perduta!» Diversamente dall'angelo, Guglielmo piangeva. Io mi strinsi a lui, mentre egli strappava da un tavolo un panno e tentava di ricoprirmi. Ci fermammo a osservare, ormai sconfitti, ciò che accadeva intorno a noi. Vidi allora Bencio alterato in viso, con un enorme recipiente, saliva dal piano inferiore. Udì quello che dicevano i reduci e li apostrofò. «L'inferno! Ingoierò voi tutti vigliocchi!» Si voltò come per cercare aiuto e mi vide. «Ozzo!» gridò. «La biblioteca! La biblioteca!» Non attese la mia risposta. Corse ai piedi della scala e penetrò arditamente nel fumo. Fu l'ultima volta che lo vidi. Avvertì uno scricchiolio che proveniva dall'alto. Il pavimento del labirinto stava cedendo. Scesi di corsa al piano terreno e uscii all'aperto. Alcuni famigli volonterosi avevano portato delle scale con le quali tentavano di raggiungere le finestre dei piani alti e far passare l'acqua per quella via. Ma le scale più lunghe arrivavano a malapena alle finestre dello scriptorium e chi vi era salito non poteva aprirle dall'esterno. Mandarono a dire di aprirle dall'interno, ma nessuno ora ardiva più salire. Frattanto io guardavo le finestre del terzo piano. La biblioteca tutta doveva essere diventata ormai un solo braciere fumigante e il fuoco ora correva di stanza in stanza aprendosi rapido alle migliaia di pagine riarse. Tutte le finestre erano ormai illuminate. Un fumo nero usciva dal tetto. Il fuoco si era già comunicato alle travature di copertura. L'edificio, che sembrava così solido e tetragono, rivelava in quel frangente la sua debolezza, le sue crepe, i muri mangiati sin dall'interno, le pietre sgretolate che permettevano alla fiamma di raggiungere le intelaiature di legno, ovunque esse fossero. D'un tratto alcune finestre si spezzarono come premute da una forza interna. Le scintille uscirono all'aperto, punteggiando di luci vaganti il buio della notte. Il vento, da forte era divenuto più leggero e fu sventura, perché forte avrebbe forse spento le scintille. Leggero le trasportava eccitandole e con loro faceva volteggiare nell'aria brandelli di pergamena resi esili da un'interna face. A quel punto si udì uno schianto. Il pavimento del labirinto aveva ceduto in qualche punto, precipitando le sue travi infuocate al piano inferiore. Perché ora vidi lingue di fiamma alzarsi dallo scriptorium, anch'esso popolato di libri e di armadi e di carte sciolte distese sui tavoli, pronte alla sollecitazione delle scintille. Tutto il pianoro era in preda al disordine, ma si era appena all'inizio della tragedia, perché, uscendo dalle finestre dal tetto, la nube ormai trionfante delle scintille, incoraggiata dal vento, stava ricadendo ovunque, toccando le coperture della chiesa. Non vi è chi non sappia quante splendide cattedrali siano state vulnerabili al morso del fuoco, perché la casa di Dio appare bella e ben difesa come la Gerusalemme celeste a causa della pietra di cui fa pompa, ma le mura e le volte si reggono su di una fragile, per quanto mirabile, architettura di legno E se la chiesa di pietra ricorda le foreste più venerabili per le sue colonne che si diramano alte nelle volte, ardite come querce, della quercia ha sovente il corpo, come ha parimenti di legno tutto il proprio arredo, gli altari, i cori, le tavole dipinte, le panche, gli scranni, i candelabri. Così accadde per la chiesa abbaziale dal portale bellissimo che tanto mi aveva affascinato il primo giorno. Essa prese fuoco in un tempo brevissimo. I monaci e la popolazione tutta del pianoro capirono allora che era in gioco la sopravvivenza stessa dell'abbazia e tutti si misero a correre ancora più bravamente e disordinatamente per fare fronte al pericolo. Così, alle grida di rimpianto per le molte ricchezze arse, si stavano ora unendo le grida di dolore per i volti ustionati, le membra schiacciate, i corpi scomparsi sotto un repentino precipitar di volte. Mi chiesi allora dove fosse Guglielmo e temetti che fosse stato travolto da un crollo. Lo trovai dopo lunga ricerca nei pressi del chiostro. Aveva in mano la sua sacca da viaggio, mentre il fuoco già si comunicava alla casa dei pellegrini. Era salito nella sua cella per salvare almeno le sue preziosissime cose. Aveva preso anche la mia sacca, in cui trovai qualcosa di cui rivestirmi. Ci soffermammo ansanti a guardare cosa avveniva d'intorno. Ormai l'abbazia era condannata. Quasi tutti i suoi edifici erano, quale più quale meno, raggiunti dal fuoco. Quelli ancora intatti non lo sarebbero stati tra poco, perché tutto ormai, dagli elementi naturali all'opera confusa dei soccorritori, collaborava a propagare l'incendio. Salve rimanevano le parti non edificate, l'orto, il giardino davanti al chiostro. Non si poteva fare più nulla per salvare le costruzioni, ma bastava abbandonare l'idea di salvarle per poter osservare tutto senza pericolo, stando in zona aperta. Era la più grande biblioteca della cristianità, disse Guglielmo. Ora, aggiunse, l'anticristo è veramente vicino, perché nessuna sapienza gli farà più da barriera. D'altra parte, ne abbiamo visto il volto questa notte. Il volto di chi? Domandai stordito. Jorge, dico, in quel viso devastato dall'odio per la filosofia, ho visto per la prima volta il ritratto dell'anticristo, che non viene dalla tribù di Giuda, come vogliono i suoi annunciatori, né da un paese lontano. L'anticristo può nascere dalla stessa pietà, dall'eccessivo amor di Dio o della verità, come l'eretico nasce dal santo e l'indemoniato dal veggente. Temi, Azzo, i profeti e coloro disposti a morire per la verità, che di solito fanno morire moltissimi con loro, spesso prima di loro, talvolta al posto loro. Jorge ha compiuto un'opera diabolica perché amava in modo così lubrico la sua verità da osare tutto pur di distruggere la menzogna. Jorge temeva il secondo libro di Aristotele perché esso forse insegnava davvero a deformare il volto di ogni verità affinché non diventassimo schiavi dei nostri fantasmi. Forse il compito di chi ama gli uomini è di far ridere della verità, fare ridere la verità, perché l'unica verità è imparare a liberarci della passione insana per la verità. Ma, maestro, azzardai dolente, voi ora parlate così perché siete ferito nel profondo dell'animo, però c'è una verità, quella che avete scoperto stasera, quella cui siete arrivato interpretando le tracce che avete letto nei giorni scorsi. Jorge ha vinto, ma voi avete vinto Jorge, perché avete messo a nudo la sua trama. Non vera una trama, disse Guglielmo, e io l'ho scoperta per sbaglio. L'asserto era autocontraddittorio e non capii se veramente Guglielmo voleva che lo fosse. Ma era vero che le orme sulla neve rinviavano a Brunello, dissi. Era vero che Adelmo si era suicidato. Era vero che Venanzio non era annegato nell'orcio. Era vero che il labirinto era organizzato così come lo avete immaginato? Era vero che si entrava nel Finis Africe toccando la parola Quator? Era vero che il libro misterioso era di Aristotele? Potrei continuare a elencare tutte le cose vere che voi avete scoperto giovandovi della vostra scienza. Non ho mai dubitato della verità dei segni, Azzo. Sono la sola cosa di cui l'uomo dispone per orientarsi nel mondo. Ciò che io non ho capito è stata la relazione tra i segni. Sono arrivato a Jorge attraverso uno schema apocalittico che sembrava reggere tutti i delitti, eppure era casuale. Dove sta tutta la mia saggezza? Mi sono comportato da ostinato, inseguendo una parvenza di ordine, quando dovevo sapere bene che non vi è un ordine nell'universo. Ma immaginando degli ordini errati, avete pur trovato qualcosa. Hai detto una cosa molto bella, Azzo. Ti ringrazio. L'ordine che la nostra mente immagina è come una rete o una scala che si costruisce per raggiungere qualcosa, ma dopo si deve gettare la scala perché si scopre che, seppure serviva, era priva di senso. Le uniche verità che servono sono strumenti da buttare. Voi non potete rimproverarvi nulla. Avete fatto del vostro meglio. È il meglio degli uomini, che è poco. L'abbazia arse per 3 giorni e per 3 notti e a nulla valsero gli ultimi sforzi. Già nella mattinata del 7° giorno della nostra permanenza in quel luogo, quando oramai i superstiti si avvidero che nessun edificio poteva più essere salvato, quando delle costruzioni più belle diroccarono i muri esterni e la chiesa, quasi avvolgendosi su di sé, ingoiò la sua torre, a quel punto mancò a ciascuno la volontà di combattere contro il castigo divino. Guglielmo e io lasciamo quei luoghi su 2 cavalcature trovate smarrite nel bosco e che ormai considerammo res nullius. Puntammo verso oriente. Come giungemmo a Monaco di Baviera, io dovetti separarmi, tra molte lacrime, dal mio buon maestro. La sua sorte era incerta. I miei parenti preferirono che tornassi a Melk. Dalla tragica notte in cui Guglielmo mi aveva palesato il suo sconforto davanti alle rovine dell'abbazia, come per tacito accordo, non avevamo più parlato di quella vicenda, né più vi accennammo nel corso del nostro doloroso commiato. Il mio maestro mi diede molti buoni consigli per i miei studi futuri e mi regalò le lenti che gli aveva fabbricato Nicola, lui avendo di nuovo le sue. Ero ancora giovane, mi disse, ma un giorno mi sarebbero tornate utili. E invero le porto ora che scrivo queste righe. Poi mi abbracciò forte con la tenerezza di un padre e mi congedò. Non lo vidi più. Seppi molto più tardi che era morto durante la grande pestilenza che infierì per l'Europa verso la metà di questo secolo. Prego sempre che Dio abbia accolto la sua anima e gli abbia perdonato i molti atti d'orgoglio che la sua fierezza intellettuale gli aveva fatto commettere. Anni dopo, già uomo assai maturo, ebbi l'occasione di compiere un viaggio in Italia su mandato del mio abate. Non resistetti alla tentazione e al ritorno feci una lunga deviazione per rivisitare quello che era rimasto dell'abbazia. Rovistando tra le macerie, trovavo a tratti brandelli di pergamena precipitati dallo scriptorium e dalla biblioteca e sopravvissuti come tesori sepolti nella terra, e incominciai a raccoglierli come se dovessi ricomporre i fogli di un libro. Poi mi avvidi che da uno dei torrioni saliva ancora, pericolante e quasi intatta, una scala a chiocciola allo scriptorium, e di lì, inerpicandosi per un pendio di macerie, si poteva arrivare all'altezza della biblioteca, la quale era però soltanto una sorta di galleria rasente le mura esterne, che dava in ogni punto sul vuoto. Lungo un tratto di muro trovai un armadio ancora miracolosamente ritto lungo la parete, non so come, sopravvissuto al fuoco, marcio d'acqua e di insetti. Dentro vi stava ancora qualche foglio. Altri lacerti trovai frugando le rovine da basso. Povera messe fu la mia, ma passai un'intera giornata a raccoglierla, come se da quelle disiecta membra della biblioteca dovesse pervenirmi un messaggio. Alcuni brandelli di pergamena erano scoloriti, altri lasciavano intravedere l'ombra di una immagine, a tratti il fantasma di una o più parole. Raccolsi ogni reliquia che potei trovare e ne empii due sacche da viaggio, abbandonando cose che mi erano utili, pur di salvare quel misero tesoro. Lungo il viaggio di ritorno e poi a Melk, passai molte e molte ore a tentare di decifrare quelle vestigia. Spesso riconobbi da una parola o da un'immagine residua di quale opera si trattasse. Quando ritrovai nel tempo altre copie di quei libri, li studiai con amore, come se il fato mi avesse lasciato quel legato, come se l'averne individuato la copia distrutta fosse stato un segno chiaro del cielo che diceva «tolle et lege». Alla fine della mia paziente ricomposizione mi si disegnò come una biblioteca minore, segno di quella maggiore scomparsa, una biblioteca fatta di brani, citazioni, periodi incompiuti, moncherini di libri. Più rileggo questo elenco, più mi convinco che esso è effetto del caso e non contiene alcun messaggio, ma queste pagine incomplete mi hanno accompagnato per tutta la vita che da allora mi è restata da vivere. Le ho spesso consultate come un oracolo e ho quasi l'impressione che quanto ho scritto su questi fogli altro non sia che un centone, un carme a figura, un immenso acrostico che non dice e non ripete altro che ciò che quei frammenti mi hanno suggerito. Ne so più se io abbia sinora parlato di essi o essi abbiano parlato per bocca mia. Ed è cosa dura per questo vecchio monaco, alle soglie della morte, non sapere se la lettera che ha scritto contenga un qualche senso nascosto e se più d'uno e molti o nessuno. Tra poco mi ricongiungerò col mio principio e non credo più che sia il Dio di gloria di cui mi avevano parlato gli abati del mio ordine, o di gioia, come credevano i minoriti di allora, forse neppure di pietà. Cadrò nella divinità silenziosa e disabitata dove non c'è opera né immagine. Fa freddo nello scriptorium. Il pollice mi duole. Lascio questa scrittura, non so per chi, non so più intorno a che cosa. Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus. La rosa primigenia esiste solo nel nome, solo vuoti nomi possediamo. Thank you.